Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24, ben ritrovati Ivana Di Martino. Ciao, buona domenica a tutti. Allora, in un tempo in cui l'emergenza coronavirus ha stravolto il calendario del running e dell'atletica sia a livello nazionale che internazionale, cerchiamo oggi di abbozzare dei possibili scenari in prospettiva futura. Lo facciamo con il condirettore del mensile Correre, Daniele Menarini, benvenuto. Grazie, ben ritrovati e buongiorno, buona domenica a tutti. Partiamo un po' dalla notizia arrivata in redazione giovedì sera, la cancellazione della Boston Marathon. È una vera doccia fredda per tutti gli appassionati, soprattutto per loro che anche nella nota hanno ribadito che si tratta della prima volta, e giustamente tanto il sindaco Walsh oppure il CEO di Boston, il capo di Boston, che è Girk, ci hanno con orgoglio comprensibile tenuto a sottolineare che Boston era riuscita a esserci sempre da quel 1897, quando andò in scena anche durante le due guerre mondiali e anche in una situazione simile alla nostra, che dal 1918 con questa pandemia di spagnola che fece purtroppo delle stragi di dimensione impressionante, e questo dà l'idea un po'. Infatti era la maratona più vecchia al mondo, no? 123 edizioni. 123 edizioni e continue fino a questo momento, mai un'interruzione. Poi guardando gli Stati Uniti, rimangono per ora in piedi la Chicago Marathon l'11 ottobre e la Maratona di New York il 1 novembre, no? 50esima edizione. Così è, per il momento sono confermate. Per momento sta diventando la premessa di ogni nostra affermazione, perché sì, si naviga vista, questa è un po' la nostra realtà. Per quanto riguarda New York, si deciderà forse il 15 agosto, so che c'è una data limite forse. In generale ho imparato, parlando, tenendo monitorati gli organizzatori, l'avete fatto anche voi, che ognuno di loro si dà circa un 90 giorni prima per dire: questo è l'ultimo momento in cui, se dobbiamo farla, abbiamo tempo per farla bene. Quindi quello è il giorno in cui di solito si prendono le decisioni, vale anche, da quello che ho capito, per gli organizzatori italiani. Quindi dovremo purtroppo abituarci che ogni tanto avremo a tot mesi dalle grandi maratone italiane autunnali che ancora sono in calendario questo tipo di verdetto o meno. Più che altro, Daniele, immagino anche per non perdere troppi soldi, no? Perché sennò, se si arriva troppo in procinto della gara, poi si rischia veramente di perdere tanto, no? Sì, tanto, perché ci sono tutte le spese che nel frattempo vengono fatte. Pensa solo tutte le volte che si arriva addosso una bellissima maglietta con scritto l'anno della maratona. Quelle sono fatte tanto tempo prima, sto facendo un esempio un po' banale che ci aiuta a capire, però sono soldi che se ne vanno. Non parliamo poi di quelle gare che si sono trovate all'inizio del lockdown, tipo ghigliottina, penso alla Roma Ostia. La Roma Ostia era pronta ad aprire l'Expo, vi ricordate? L'8 marzo. O la mia maratona di Bologna, che era la prima edizione. Tant'è vero che in questa settimana è arrivata la notizia che hanno passato alla Caritas, ad esempio, le tonnellate di acqua che avevano preparato e tante altre. Ecco, sì, la risposta, Ivana, è sì, ci sono tante spese e anche da lì. Questo rende difficile la decisione di rinviare. Ma infatti anche la Stramilano poi hanno deciso poi veramente all'ultimo, però era già tutto organizzato alla fine, perché comunque era il 21, quindi 21 marzo. Sono le più penalizzate le gare di marzo quest'anno. Sì, è vero. In Europa invece, pensando ai grandi eventi e delle maratone major, diciamo, Berlino è stata già annullata, come sappiamo, che era in programma a settembre, per ora rimane in essere la London Marathon, no? Che dal 26 aprile è stata spostata. London Marathon, sì, con questa meteora di Parigi che si è spostata, poi ha rivisto le sue posizioni. La London Marathon rimane per il momento al 4 di ottobre, per la settimana prima di Chicago, che, come dicevi tu, rimane ancora in piedi, con tutto il suo carico di impegni che ha nei confronti dei Master, perché quello è anche questo campionato mondiale Master all'interno delle Major che sta scatenando la passione di tanti nostri colleghi molto competitivi, beati loro. E quindi già lo spostamento ha richiesto modalità di rimborso differenti, non è già stato semplice per loro passare dal 28 di aprile al 4 di ottobre, compresa la grande nostra attesa di appassionati per questa sfida meravigliosa di Ali Foreman tra Kipchoge e Bekele, chissà, magari li rivediamo. E infatti anche qui si attende una risposta definitiva a fine agosto, e nel caso ci potrà essere forse solo la gara Elite. La modalità Tokyo, sì, giusto. La modalità Tokyo, solo top runner, è quella che permette di andare incontro alle disposizioni che anche la federazione, so che avremo la possibilità di sentire, hanno proposto per fare partire gare vere in modalità coronavirus, chiamiamola così, è un po' brutto, però un po' come abbiamo visto fare a Stavanger in Norvegia qualche giorno fa dai fratelli Ingebrigtsen, che hanno fatto quel 5.000 su strada ferocissimo, sì, davanti però a un pubblico che non aveva né la mascherina né la distanza. No, facciamo qua da noi, ci appendono al muro, lì andava bene, insomma quella è la modalità, i top runner hanno qualche possibilità in più. Però non è ancora stato annullato il Tour de Jean, tra l'altro, i primi metà settembre. Hai ragione, il Tor, la battuta è se non è distanziamento gareggiare al Tor. Effettivamente. È stata annullata la grande UTMB, che è l'altra grande, sì, appuntamento d'autunno del trail, lì non c'era possibilità perché avete visto anche voi che razza di partenza, le partenze pazzesche, sì, New York, in dimensione trail. Invece Ivana, sì, il Tor, se riesce a trovare il modo di dilazionare le partenze, tanto hai 7 giorni per andare a prendere, la sto brutalizzando, sì, non, sì, ne, sì, voglio, sì, sì. Però loro con questi ampi spazi, è vero che hanno tanti single track dove in teoria non ci si potrebbe sorpassare, anche questo stiamo parlando di fantascienza, però qualche possibilità in più secondo me la possono ancora avere. Sì, sì, infatti c'è solo il campo base che dovranno gestire un attimo, però per il resto secondo me magari riescono, ma speriamo, dai. Almeno loro. Perché Ivana ce l'ha un po' sul mirino, per quello ne parla. Ivana è nata per fare il Tor, perché per lei 330 km e 24.000 metri di dislivello non sono come me, quasi normale. Daniele, invece, in Italia, se non sbaglio, insomma, ad oggi le regole del distanziamento sociale saranno valide fino al 31 luglio, infatti il calendario delle gare su strada non solo è vuoto, no? Ci sono stati dei tentativi di posticipare grandi eventi come la Stramilano e la Milano Marathon, che hanno poi alzato bandiera bianca, diciamo. Sì, l'ultima Milano Marathon, ieri è stata la giornata delle due grandi botte, da una parte Boston e per quanto riguarda noi Milano. Milano ha provato a trovare spazio. Ricordi che in un primo tempo addirittura si pensava di farlo prima della pausa estiva, poi in ottobre-novembre ipotizzava Andrea Trabuio, e alla fine c'è stata questo arrendersi all'evidenza molto onesto e molto coraggioso. Tornando a quello che diceva Ivan a proposito dei budget, probabilmente mi permetto di dire che la maratona di Milano è ancora un po' più complesso che per altre maratone pure importanti, perché è all'interno, molti dei nostri ascoltatori lo sanno, di una realtà come RCS Sport, quindi di una dimensione più grande di cui sei una parte dell'insieme, non sei autonoma nelle decisioni, è la stessa realtà che governa il Giro d'Italia, per cui tutto diventa un po' più complicato quando si tratta di prendere questo tipo di decisioni. Nel frattempo la FIDA, la Federazione Italiana di Atletica Leggera, ha presentato nelle scorse settimane il calendario delle gare su strada, maratone e mezze maratone per il 2021, mentre per quanto riguarda, insomma, l'autunno di questo 2020, per ora siamo ancora alle prese con un grosso punto di domanda, ma cerchiamo di mettere sul tavolo quantomeno un possibile scenario. Lo facciamo con il segretario nazionale della Federazione di Atletica, Fabio Pagliara, che è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Pagliara, partiamo da una notizia, una buona notizia. Dal 27 maggio l'Atletica Nazionale ha un nuovo calendario. Sì, in realtà noi abbiamo, a seguito di una serie di incontri fatti con il gruppo degli organizzatori e con i vari stakeholder, abbiamo cercato da un lato di dare la maggiore certezza possibile su quella che era l'attività, quindi per il 2021, per dare il tempo di programmare le attività in quelle che noi riteniamo sia probabilmente un periodo congruo per ripartire. Poi dovremo vedere come si ripartirà, anche già in primavera, se ci sarà bisogno, e le stiamo studiando, di qualche regola riguardo, non so, il distanziamento fisico o qualche altro, insomma, norma che dovremmo fare. Nello stesso tempo abbiamo cominciato a pensare a quello che accadrà ovviamente in autunno, quindi dove la situazione è un po' più complessa. Quindi, da un lato siamo partiti, come ci avevano richiesto anche gli organizzatori, con delle certezze, e quindi abbiamo calendarizzato quello che erano state le proposte sostanzialmente che gli organizzatori avevano fatto, limitandole rispetto a quello che normalmente facciamo, che è un piano triennale, al 21, per capire ovviamente quello che può accadere, diciamo, nell'anno prossimo, che sarà un anno magari ancora dove qualche cosa di mezzo ci può, speriamo di no, ma potrebbe, insomma, accadere. E quindi abbiamo dato il via a questo, contestualmente a quelle che sono partite in calendario, che voi avete visto, che sono le cosiddette gold e silver, è partita anche tutta l'attività, che poi sono quelle bronze regionali, per i quali invece sono gli stessi comitati regionali a dare le varie indicazioni. È chiaro che da questo punto di vista fa, diciamo, fede e fa più forza quelle che saranno, specie a livello regionale, le autorizzazioni che verranno poco a poco fatte dai governatori piuttosto che dal decreto ministeriale. Sull'autunno la situazione si preannuncia un po' più complessa e giustamente, secondo me, in questa concertazione fatta con gli organizzatori ci è stato chiesto di aspettare ancora, diciamo, almeno il 30 giugno per capire come condizioni si può ripartire, il governo ci fa ripartire, perché è evidente che al di là del calendario c'è una certa preoccupazione rispetto al fatto che in autunno si possa pensare di gareggiare come prima. Quindi è vero che noi abbiamo pronto una serie di, pronto, insomma, siamo con gli organizzatori vedendo una serie di norme, di regolamenti, di linee guida che possono, diciamo, possono essere proposte al governo, ma è chiaro che c'è una grande differenza di insicurezza da parte correttamente degli organizzatori, perché una cosa, non so, è avere un massimo di partecipanti, una cosa no, una differenza in partenza di un metro o due metri, la scia che debba essere 5 metri, insomma ci sono una serie di difficoltà che potrebbero rendere anche complicata la ripartenza in autunno per moltissimi eventi, specie quelli, insomma, i massi eventi più grandi, immagino Firenze, Venezia, insomma, però sono alcuni eventi dove sono 10.000 persone in partenza, sarà magari complicato pensare oggi che si possano mettere. Quindi sulla parte autunnale, insomma, non nascondo che evidentemente c'è molta cautela da parte nostra, aspettiamo quello che è, diciamo, l'indicazione del governo. Nel frattempo, su richiesta degli organizzatori, abbiamo fatto anche un, diciamo, pool di medici per poter cercare di capire quali possono essere alcune indicazioni, però è complicato onestamente. Ma poi quindi secondo te sarà più fattibile fare, comunque organizzare una maratona per aprile, cioè per la prossima primavera, sarà quasi sicuro, insomma, questa cosa? Cioè, molto, diciamo, probabile. Che abbiamo questa, siamo fiduciosi e siamo convinti che, insomma, in primavera prossima probabilmente l'indicazione sia, insomma, le maglie si allarghino. È chiaro che siamo dell'idea che probabilmente alcune delle cose che noi abbiamo visto oggi magari non si vedranno più, quindi la consegna dei pettorali piuttosto che dei pacchi gara magari sarà fatta in maniera diversa, potranno essere fatte con delle procedure diverse che tenderanno in qualche modo al distanziamento alto. Però è chiaro che dipende quali sono le regole che oggi apparirebbero da quelle che sono le indicazioni che, insomma, sono uscite dallo studio del Politecnico di Torino, altri sarebbero estremamente penalizzanti per un organizzatore, quindi mettere su un evento del genere potrebbe essere complicato. Capite bene, faccio l'esempio di Roma, se mettere alla partenza 40.000 persone, se devono essere distanziate di 2 metri, ci vuole uno spazio immenso rispetto a quello che c'era prima, si perde anche un po' magari l'aspetto del gioco, della festa. Infatti, quindi va chiaramente capito. Noi siamo stati anche attaccati un po' come federazione perché abbiamo cercato di essere pronti per al piano B, quindi è chiaro che ci auguriamo tutti che si riprenda come prima, però dobbiamo essere anche consapevoli che se questo non accadesse dovremmo magari ipotizzare delle formule diverse, lo stiamo facendo in questo momento sulla pista pur di riaprire, dovremmo magari cercare di pensarlo anche sull'attività su strada. E non è facile, è un trauma per tutti e capisco, e qua però è un'altra partita, che del danno economico al comparto, quindi è evidente che per gli organizzatori, che sono posti di lavoro, la di complessità nell'organizzare un evento del genere senza certezze è molto grave. Da qua io dico sempre, dobbiamo passare da una logica giusta di assistenzialismo, che ci deve essere in questa fase ovviamente post-Covid molto violenta, a una fase di sviluppo. Quindi è chiaro che il credito d'imposta per gli sponsor secondo noi è decisivo, la possibilità di organizzare un evento con magari per 1 o 2 anni avere delle agevolazioni sulle tasse comunali, insomma chi organizza un evento deve pagare i vigili, l'altro magari ci può essere qualche aiuto del genere, se no corriamo il rischio che un comparto che produce felicità, come dico io, FIL, la felicità interna lorda, ma produce anche PIL, quindi da questo punto di vista è evidente che dobbiamo riuscire con un po' di buon senso a far camminare le due cose insieme. Ma nel Consiglio nel Consiglio federale sono stati presi tanti provvedimenti sul fronte economico, insomma, anche per aiutare un po' le associazioni sportive è stato fatto qualcosa. Si parla anche del fatto magari di posticipare le iscrizioni, tenere valida l'iscrizione del 2020 per il 2021, no? Guarda, intanto nel Consiglio federale del 30 giugno saranno poi specificati i tipi di intervento. Per ora siamo riusciti, tagliando tutto quello che si può tagliare in una federazione a confermare intanto una cifra intorno al 1,5 milioni di contributo alle società, quindi alle nostre affiliate. Poi si vedrà appunto se è più conveniente restituire i soldi di affiliazione o non far pagare l'affiliazione l'anno prossimo, o se restituire la tassa gara quest'anno o non farla pagare l'anno prossimo. Sono dei problemi anche di tipo proprio di contabilità. Però è evidente che in questo piano ipotizzato al Consiglio federale ci sono interventi di supporto anche agli organizzatori, quindi rispetto all'ipotesi della, appunto, della tassa gara, dell'omologazione che potrebbe essere prolungata, al fatto magari del prolungamento dell'arancard o del tesseramento giustamente dei tetti. Quindi ci sono una serie di interventi. Il 30 di giugno alcuni di questi saranno ancora più specificati, su altri saranno poi, diciamo, delineati in via definitiva a settembre, quando sarà chiaro anche l'intervento che lo Stato fa, perché lo Stato sta progettando e facendo sulle società sportive. È previsto per settembre un intervento ulteriore di Sport e Salute nelle federazioni, che sarà però interamente, diciamo, e strategicamente devoluto per le società di base. Quindi è evidente che questo va visto. In una federazione come la nostra occorre anche fare un ragionamento, dico, sereno. Gli organizzatori sono un po' come Confindustria, le società di base un po' come il sindacato, quindi dobbiamo anche da questo punto di vista, da un lato, fare un grande attenzione appunto a chi produce lavoro, dall'altro anche a chi fa volontariato, e quindi dobbiamo garantire poi che non muoia l'attività di base, che insomma vive su questo volontariato. Ma nel frattempo c'è un dialogo col governo o è una cosa da avviare? Okay. Sì, sì, molto stretto, devo dire. E nell'attività su pista già abbiamo riaperto gli impianti sulla base anche di disciplinari, ovviamente, che sono stati condivisi. Noi abbiamo fatto questo e stiamo facendo la stessa cosa per l'attività su strada. Abbiamo deciso di comune accordo con gli organizzatori di rallentare un po', perché si è confidenti, e speriamo che sia così, ovviamente tutti quanti. Parla uno che viene da 60 giorni di Covid ed è stato in intensiva, quindi è quello di cui si parla. E però, diciamo, si è confidenti che ci sarà un miglioramento complessivo, e quindi ipotizzare oggi sostanzialmente una regolamentazione, una trattativa col governo potrebbe essere per noi stessi penalizzante rispetto ad aperture che pensiamo ci possano essere tra 20 giorni. Però col governo c'è un rapporto molto buono e costante, con il capo di dipartimento, il dottor Piero, insomma si cerca un colloquio per capire come riaprire piano piano tutto. E come funzionerà dal punto di vista tecnico? Si produrrà, come ha fatto il calcio, diciamo, una proposta da portare al vaglio del Comitato Tecnico Scientifico? Delle linee guida che stanno studiando, linee guida che vanno, per fare un esempio in questo momento, sulla tipologia di partenza, che potrebbe essere fatta a scaglioni piuttosto che a cronometro, piuttosto che con delle griglie di distanza che partono però dopo un tot di minuti, in maniera tale che si possa essere, diciamo, migliorare il distanziamento fisico. Si è pensato a come poter risolvere il problema del ritiro dei pettorali, ma anche quello banale della attività che viene fatta per lo spugnaggio o per il ristoro. Quindi in realtà un evento come questo è delicato, e c'è un tema che giustamente credo sollevano gli organizzatori come la madre dei problemi. Io lo condivido molto, questa preoccupazione, che è quella poi della responsabilità giuridica che c'è in questo momento oggettiva, perché se passa il concetto che chi fa una maratona e poi ha il Covid può essere responsabilità dell'organizzatore, capite bene che c'è una responsabilità anche penale molto forte. Ha anche analizzato questo genere di ragionamento, che ovviamente investe il nostro mondo in Italia complessivo, perché questo vale anche per quelli che aprono le fabbriche, che altro. Quindi insomma è un problema grosso e serio, che insieme all'INAIL, insieme al governo, va capito, perché sennò è una fonte di ulteriori difficoltà per la riapertura. Io stavo, una curiosità più che altro per gli atleti professionisti, no? Che comunque, cioè, l'anno prossimo dovranno anche affrontare insomma le Olimpiadi, no? Che sono state posticipate nel 2021. Mi chiedo, nel caso si potrà comunque organizzare anche delle maratone sono per loro, no? Anche perché per aiutarli un attimo, immagino. Certo, diciamo che qua ci sono due aspetti. Diciamo, quello che preoccupa in questo momento in maniera, diciamo, minore è proprio quello della rendere possibile la partecipazione degli atleti top. Questo, non so, la maratona di New York ha già detto che quest'anno lo farà aperto soltanto agli atleti di livello, ma fare gareggiare 200 atleti di livello è relativamente facile. Fare gareggiare 50.000 persone, ovviamente, certo, è molto più complesso. I nostri atleti si stanno già allenando da questo punto di vista, hanno già previsto la maratona, le due maratone di avvicinamento alla maratona di Tokyo, quindi diciamo da questo punto di vista siamo un po' meno preoccupati, nel senso che non hanno mai smesso e non smetteranno, e hanno insomma già in programma i due o tre eventi che hanno dichiarato di fare comunque la maratona per gli atleti top. Per invece gli organizzatori e per le persone che amano la corsa siamo un po' più preoccupati, quindi bisiamo prestare la massima attenzione per salvaguardare il popolo dei runner, che già ha subito in maniera abbastanza ignobile attacchi come se fossero gli untori del mondo, cosa che ovviamente, scordandosi che insomma camminare o correre fa certamente bene, e che se il Covid ha dimostrato una cosa è che lo sport è diventato un'esigenza sociale, quindi è proprio l'opposto, insomma. Quindi superata questa macchia del fango contro un cuore, riprendere a farli, se è possibile, ripeto, produrre felicità quando corrono. Assolutamente, grazie. Su questo punto un po' qualcuno insomma lamentava un po' una manchevolezza da un certo punto di vista della FIDAL rispetto a... Io voglio essere molto sincero, prima cosa che ho fatto uscito dal reparto, arrivato al Covid Hotel, è stato proprio fare due dichiarazioni pubbliche, perché la FIDAL non aveva preso una posizione ufficiale, quindi è stato certamente una mancanza dovuta al fatto che c'erano insomma altre prerogative, altre così, però ho chiesto scusa a titolo personale come segretario pubblicamente, però è stato uno dei primi gesti che ho fatto ancora in isolamento, perché effettivamente il far sentire da questo punto di vista dalla federazione una maggiore tutela a chi corre era giusto, quindi ho detto che in questi casi sia più semplice chiedere scusa che insomma trovare altre soluzioni. Per quanto mi riguarda, mi verrebbe facile scusarmi perché c'era una giustificazione, E chiudendo con due cose positive, campionato italiano in due fasi, che è un po' una novità, e il Golden Gala allo Stadio dei Marmi il 17 settembre. Sì, guarda, il Golden Gala allo Stadio dei Marmi è un'emozione, nel senso che per alcuni di noi è un grande sogno, finora era sempre stato vietato, io non vengo dall'atletica, ma quando inizialmente con Diego Neti e altri avevamo pensato perché non farlo, ce l'ha detto che era impossibile per motivi proprio di omologa di... Oggi chiaramente tutto è possibile, grazie al Covid. Sono aperte queste possibilità, diventerà, io penso, un po' anche simbolicamente un po' il meccanismo di apertura dello sport italiano in un posto che è il più bello stadio del mondo, in diretta televisiva, anche in altre parti, quindi è evidente che sarà un grande spettacolo anche dal punto di vista simbolico. Lo Stadio dei Marmi è intitolato a Pietro Mennea, il Golden Gala è intitolato a Pietro Mennea, quindi c'è anche una serie di motivazioni che lo rendono questo momento assolutamente speciale. E l'altra, e credo che sia un grande merito del Presidente del Consiglio federale, quello di riuscire a scindere due momenti, uno dove a Padova sui campionati italiani assoluti, insomma, che normalmente ci saranno, invece le prove di endurance farle successivamente a Modena. Questo perché è chiaro che in questo momento la difficoltà maggiore sta proprio nelle gare un po' del mezzo fondo prolungato, perché la scia e il corno a fianco l'uno nell'altro. Abbiamo anche in questo caso studiato il piano B, quindi probabilmente in maniera sperimentale queste corse si faranno in maniera non usuale, quindi a cronometro, partendo ciascuno ogni 10-15 secondi, in maniera tale che ciascuno verrà poi correrà col proprio tempo, anche se sono tutti a correre uno appresso all'altro. Quindi dobbiamo su questo dare il senso che non ci fermiamo. Ha fatto un lavoro straordinario il Consiglio federale da questo punto di vista, e quindi diamo il senso della ripresa. Certo, per i puristi dell'atletica non è bello, ma era l'unico modo per ora per non fermarci e per procedere. Era una nota di ottimismo, quantomeno. Sì, come ripeto, simbolicamente un Golden Gala ci rendiamo conto, in uno stadio che comunque ha 6 corsie, probabilmente non ci saranno una serie di stranieri, speriamo di sì, ma insomma il 17 settembre non so quanti stranieri verranno magari in Italia a fare delle gare, speriamo ovviamente saranno invitati, però certamente dà il senso della voglia di riprese, comunque vedere Filippo Tortu che torna a fare i 100 sperando di scendere sotto i 10 è un'emozione, o Jimbo Tamberi che va a fare il salto in alto, quindi sono belle cose, belle storie che danno il senso di una federazione, ma anche di uno sport che vuole ripartire e di un paese che vuole ripartire. Assolutamente. Grazie mille a Fabio Pagliara. Grazie a voi. E noi chiudiamo con il punto di vista di Lorenzo Cortesi, general manager di Venice Marathon. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Allora Lorenzo, andiamo subito al sodo, che il tempo insomma stringe. E che futuro vedete e come vi state preparando voi per il vostro evento? Allora, noi siamo fiduciosi e ci crediamo sempre. Il futuro non sarà semplice, ma vogliamo far correre tutti e in sicurezza, per cui ci stiamo già adoperando su questo anche insieme alla federazione. Non so ancora dirvi come, quando e perché, ma noi siamo pronti a partire e abbiamo una città che non aspetta altro, per cui tra le altre cose io penso che il turismo sportivo sarà una delle leve principali per far partire proprio le città turistiche, e noi non possiamo esimerci da provarci. Tra l'altro anche perché io e Silvio dobbiamo partecipare, quindi per forza dovete farla. Quello è il motivo principale per cui... Ah, ecco, ecco. La faremo solo per i top, eventualmente. E Lorenzo, l'assembramento insomma è la vita delle grandi corse su strada, no? È difficile conciliare il tutto con la situazione attuale. Ma sai, con la situazione attuale certamente sì, ma dovremmo arrivare a un punto, e secondo me in autunno ci arriviamo, in cui a contagio, in una situazione di contagio zero... I punti sono tre: senso civico da parte del runner, senso di responsabilità da parte del runner, che dovrà assumersi anche le sue responsabilità, quindi arrivare coscientemente e preparato sia fisicamente ma anche dal punto di vista sanitario, e poi il punto fondamentale, che è quello che fa ripartire l'Italia, non solo le corse, è l'accettazione del rischio. Dobbiamo metterci in testa che ci deve essere l'accettazione del rischio. Senza l'accettazione del rischio non riparte niente, non le corse su strada. Io la penso. E come si immagina una Venice Marathon? Una maratona che è un po' diversa dalle altre, no? Una partenza da punto a punto, lo spostamento con i pullman delle persone, tutto è più complicato, diciamo. Ma sì, gli spostamenti comunque non sono tanto più complessi, perché basta aumentare leggermente il numero dei mezzi, il distanziamento sociale c'è già. Naturalmente l'uso della mascherina sarà obbligatorio negli spostamenti, nella zona di partenza e nelle zone di arrivo, quello sicuramente sì. Avremo meno stranieri, forse non avremo neanche, infatti la gestione dei flussi è un altro dei problemi principali, non tanto l'Italia, ma la gestione dei flussi degli stranieri, quello sarà un problema di gestione molto importante, che nel 2020 non lo so bene dove ci porterà. Però gli italiani la vogliono correre, abbiamo un sacco di runner, abbiamo un sacco di movimento che è lì, che non aspetta altro, per cui io credo che gli italiani, se si impegnano nel senso civico e nella responsabilità, verranno tutti a Venezia e non solo a Venezia. Ci raccontava prima Daniele Menarini insomma che tutte le maratone si stanno dando un po' un tempo limite nel quale decidere di fare o non fare una maratona, insomma, anche per avere il tempo minimo organizzativo, no? Guarda, oggi abbiamo 4.000 iscritti, ok? Direi che per fine giugno una decisione bisogna prenderla, giusto per dare anche modo, non tanto, oltre che ai runner, di organizzarsi e di allenarsi, soprattutto, perché fare la maratona non è come 10 km, ci vogliono 3-4 mesi anche per i neofiti, anche di più 5 o 6, e per cui da quel punto di vista non vedo grossi problemi. Poi il problema più grosso sarà la sostenibilità economica, perché tutte le aziende hanno avuto i problemi di tutti noi, quindi gli sponsor hanno dei problemi, magari non garantiscono gli interventi degli anni passati, insomma. E bisognerà, secondo me, coinvolgere ancora di più le nostre città. Noi abbiamo un sindaco che vuole fare, per cui chiederemo aiuto anche a loro, perché no. Magari non con contributi economici, ma con servizi, cosa che in parte già succede, ma per dire trasporti, tutte queste cose che hanno dei costi abnormi. Certamente, secondo me, lo scotto da pagare più grosso sarà la sostenibilità economica. E per quanto riguarda Venice Marathon è anche un'azienda, no? Cioè, parliamo di una gara su strada che molte volte sembra ludica, ma ci sono anche delle persone che lavorano, per cui è un'azienda vera e propria, diciamo. Sì, questo è il primo motivo per cui tutti ci battiamo perché venga fatta e perché riparta tutto. Poi magari faremo anche delle altre cose. Però oggi tutti i ragazzi sono in cassa integrazione, l'unica partita IVA attiva sono io, rispondo anche al telefono, e insomma, però bisogna crederci, bisogna farlo. Daniele, vuoi aggiungere qualcosa? Lorenzo, so che era impegnato, ha fatto una partita controcorrente, una grande scommessa. Boston ieri ha citato anche il problema del pubblico, che è tanto, e che in qualche modo ricade un po' sotto la responsabilità dell'organizzatore. Per fortuna anche a Venezia il pubblico è tanto, e allora volevo sapere qualcosa da lui da questo punto di vista. No, questo è vero, però il distanziamento sociale, se uno non corre, è più facile e deve essere mantenuto. La separazione tra pubblico e atleti noi ce l'abbiamo già, perché tutto il percorso è comunque trasennato, nastrato e suddiviso con l'esterno, per cui da quel punto di vista non vedo grossi problemi. Cioè, uno ha più problemi in aereo, non è che siamo allo stadio una massati, sono comunque ordinati, distribuiti mediamente sui 42 km, con maggiori assemblamenti nella parte della Riviera del Brenta e di Venezia, certamente, però tutto è gestibile. Poi quest'anno comunque, come dicevi tu, arriveranno comunque meno stranieri e quindi ci saranno anche meno turisti e quindi sicuramente il pubblico sarà anche minore, no? Purtroppo. Sì, questa dovrebbe essere la previsione, ma noi speriamo che la previsione sia sbagliata. Sbagliava, ovviamente. Però insomma è più la più fattibile. Allora siamo in chiusura, grazie mille a Lorenzo Cortesi e in bocca al lupo, insomma aspettiamo fiduciosi. Grazie al lupo, grazie a voi e anche... Daniele è già iscritto, quindi sarà una sfida a tre. Ecco. Eh sì. Ma io faccio il servizio scopa. No, fai la 10, dai, fai la 10. La 10 volentieri, soprattutto se riesci a farla passare da San Marco. Ma quello anche con l'acqua alta fin qua, guarda. E grazie anche a Daniele Melarini. Grazie a voi, buona domenica e buon ponte chi lo fa. Ciao a tutti, grazie. E anche per oggi è tutto, noi ci fermiamo qui, ci risentiamo domenica prossima sempre alle 6.30, alle 16.15, poi quando volete ci trovate in podcast. Buona giornata. Buona giornata. Personal Best, tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.